Di recente una sorella in fede convertita da poco ha esclamato in mia presenza: com'è difficile essere cristiani. Mi aveva chiesto un parere in relazione ad un problema, ma nel corso della conversazione mi sono reso conto che, nonostante fosse convinta che ciò non fosse dal Signore, non si aspettava da me un consiglio, ma l'approvazione. Dopo una lunga battaglia per cercare di affermare il suo proposito, si è arresa e mi ha detto: a volte chiedo al Signore di lasciarmi stare per poter fare quello che voglio. Quando mi sono convertita pensavo che essere cristiani fosse facile, solo ora mi rendo conto di quanto sia difficile. Devo confessare che non appena pronunciato queste parole, nel mio cuore, insanabilmente maligno, è sorto un lampo di disprezzo nel vederla lottare così con Dio. La vedevo carnale senza amore per colui al quale un giorno aveva dato la sua vita. Ma lo Spirito Santo mi ha convinto che stavo mancando di carità cristiana e ho ricordato che anch'io, come tutti i credenti, a volte ho assunto lo stesso atteggiamento. A questo proposito vorrei riportare uno stralcio dal libro Cos è umano, dove l'autore esprime molto bene il travaglio di un'anima convertita. La nuova nascita non può essere che traumatica. Per coloro il cui modo di essere si è cristallizzato in comportamenti di vita e di pensiero non cristiani, il capovolgimento della situazione è negare quel che si è finora affermato e sostenere ed affermare ciò che si è finora messo in ridicolo e negato o meno è penoso e costoso, e possono correre anni ed anni per i riassestamenti che ne derivano. E ancora, la nuova vita cresce durante i mesi e gli anni. Andrà avanti punteggiata da molte cadute e molti scoraggiamenti, tanti quanti ne affronta il bambino quando comincia a stare in piedi, a camminare, a correre, a nuotare. Vi saranno periodi di crescita squilibrati, tutti da una parte meno un entusiasmo immaturo o la pretesa di una conoscenza più vasta di quanto sia in realtà, meno esattamente come capita a qualsiasi persona che sta crescendo. A volte vi saranno delle ribellioni, come quelle dell'adolescente che deve mettere alla prova le sue convinzioni e stabilire la propria identità. Quasi certamente sorgeranno dubbi e interrogativi, perché sono quelli i mezzi per arrivare ad una comprensione più profonda. La crescita verso la maturità è graduale. Come mi sono preziose queste verità. Quando sorgono problemi o difficoltà che mi spingono alla ribellione, ricordo che non sono il solo. Non sono anormale, non è mancanza di amore verso Dio, ma sono solamente un peccatore tra i peccatori, sono inadeguato, inefficace e inetto. Sono convinto che molti giovani credenti non esprimono le loro difficoltà perché non sentono i conduttori, o credenti convertiti da più tempo, confessare le loro esperienze negative, le loro battaglie di fede. Essi arrivano alla segreta conclusione che coloro che sono fedeli al Signore siano uomini forti, uomini che vivono talmente vicino a Dio da non essere neppure sfiorati dai problemi della vita. L'inevitabile conseguenza di ciò è una crescita rallentata, se non bloccata. La situazione è peggiorata dal fatto che chi ha una crescita difficile molte volte viene lasciato in disparte, emarginato e peggio ancora, per incomprensione e per un pizzico di malignità viene giudicato carnale o addirittura ipocrita, senza tener conto delle difficoltà interne ed esterne nelle quali si trova. È superfluo aggiungere che un'anima sensibile che si trovi in una simile situazione rimane traumatizzata, scandalizzata, incapace anche di accettare l'amore fraterno, ma si è ringraziato Dio che egli ha fatto scrivere non solo le virtù dei santi, ma anche i loro peccati, i loro timori, le loro debolezze, e nonostante ciò ci esorta ad imitare la loro fede. Una delle necessità mie e della Chiesa di oggi è certamente quella di imparare a non giudicare dall'apparenza, ma a riguardare ciò cui Dio riguarda, al cuore sincero. Se questa dura lezione l'ha imparata Samuele, un uomo che conosceva e serviva l'Eterno da tanti anni, quanto più ha bisogno di riceverla. Per mezzo dello Spirito Santo, ogni singolo credente. Anch'io, se avessi tenuto presente queste considerazioni quando la sorella mi parlava, non l'avrei disprezzata ma aiutata. Ho sbagliato, ma non tutto è perduto. Avrò altre occasioni per dimostrarle comprensione e amore. Sbagliare non è grave, perché dagli errori si può imparare tante cose, cose delle quali non si impara diversamente. Quando si sbaglia, la gravità sta nel non imparare nulla, o addirittura fare del vittimismo. Ciò che è difficile è ricordare che i peccati per Dio non sono un problema, perché Gesù è morto per questo. Colui che è diventato figlio di Dio mediante la fede in Cristo, vivrà con un cuore riconoscente e dimorerà all'insegna del perdono gratuito dato una volta per sempre. Questo è il cristianesimo. Comunque sia, la sorella ha detto una grande verità. Vivere da cristiani non è assolutamente facile. Anzi, se non fosse per lo Spirito Santo sarebbe impossibile compiere la volontà di Dio. Impossibile, perché noi non abbiamo una capacità intrinseca e poi perché viviamo in un momento molto difficile. Non mi riferisco alla situazione politica o sociale, ma a quella spirituale. Serpeggia nella società uno spirito che vuole eliminare ogni differenza, che vuole appiattire ogni cosa e rendere tutto di uno stesso colore. Una dimostrazione evidente è avvenuta il 2 maggio 1998, quando è nata l'euro, cioè la moneta unica per i paesi che aderiscono alla CE. Non più diverse monete come il franco, il marco o la lira. Tutti i paesi che si saranno accordati avranno moneta unica, cosa che mi lascerebbe indifferente se non fosse che lo stesso atteggiamento si trova anche nel campo spirituale. Si vogliono eliminare le differenze religiose, le varie identità, si vuole nascondere ciò che divide le varie fedi per riscoprire i valori biblici che uniscono per arrivare ad una fede unica. Ecco perché oggi affermare «io sono un cristiano» non si discosta dall'affermare «io sono un buddista» oppure «io sono un musulmano». Ognuno non fa che testimoniare della propria fede senza pretese esclusiviste. In fondo, si pensa tutti crediamo in uno stesso Dio, perciò non solo è difficile vivere da cristiani, ma lo è anche sapere soprattutto chi sia veramente un cristiano. E finché vivrò, ripeterò le ragioni fondamentali che rendono di un uomo un cristiano. Innanzitutto, il cristiano è colui che è nato di nuovo mediante una fede personale in Cristo Gesù. Sembra scontato che un cristiano sia colui che crede in Cristo, ma con questa asserzione si vuole specificare che la fede non deve essere posta in una religione, in un credo, in un gruppo religioso. Anche se la fede in Cristo non esclude che si abbia un credo, che si faccia parte di un gruppo religioso o di una religione, ma è indispensabile chiarire che Gesù Cristo deve diventare il nostro Salvatore e il padrone della vita donataci da Dio. Perciò non si diventa cristiani perché qualcuno ci ha fatto diventare tali con il battesimo, perché si ha dei genitori cristiani, o perché si diventa tali mediante le buone opere, ma perché Dio nella sua grazia ci fa rinascere mediante un atto di fede. Questo è il messaggio predicato da Cristo, dagli apostoli e dai primi cristiani. Occorre fare una precisazione. Non tutti coloro che hanno posto fede in Cristo sono cristiani. Questa verità deve essere predicata quanto la necessità di porre fede in Cristo per essere salvati. Nella parola di Dio leggiamo che chi crede e accetta Gesù Cristo come il Signore e il Salvatore della propria vita nasce di nuovo e diventa figlio di Dio. Non troviamo una sola affermazione che chi crede in Gesù diventi un cristiano. Eppure questo nome era ben conosciuto al tempo dell'Apostolo Paolo. La ragione è perché l'espressione figlio di Dio è riferita all'essere, mentre il sostantivo cristiano è riferito al divenire. Il cristiano è colui che ha una fede specifica che lo distingue da ogni altra persona religiosa e uno stile di vita adeguata ai parametri della Scrittura. Tutti i cristiani sono credenti, ma non tutti i credenti sono cristiani. Proprio perché il cristiano è una persona con una identità precisa, è cristiano solo colui che ha una vita cambiata rispetto a prima, una vita modellata secondo il volere di Dio. La ragione è molto semplice. Dal momento che nessuna religione è giusta, qualsiasi fede si professi sarà sempre in errore. Anche se la persona fosse cresciuta in un ambiente cristiano, quando si comporta da cristiana, il suo rapporto con Dio, con i fratelli e con il mondo cambia. Deve cambiare. Il famoso slogan «Cristiani si diventa e non si nasce» condanna tutti coloro che non hanno una vita nuova.